partecipo più a questa farsa e fanculo alle marionette sioniste, di maiali sionisti son piene le liste. E non venitemi a dire che se non vado a votare poi non posso parlare, perché a comandare sarà sempre il massone, il nasone, il sionista, è solo finzione. Non c'è alcuna lista o non voto, punto. Non partecipo più a questa farsa e fanculo alle marionette sioniste, di maiali sionisti son piene le liste. È il nostro destino, che votiate o no è già deciso. Bisogna fermarli col sangue che scorre, non con le crocette ma con la loro morte. Io non voto, punto. Non partecipo più a questa farsa e fanculo alle marionette sioniste, di maiali sionisti son piene le liste. C'è una cosa piccola ma significativa e dimostra che non c'è alternativa. Mi riferisco all'obbligo di votare la gente, ma chi elegge avrà sempre sei punte. Una democrazia che impone i nasoni, è sì un luogo libero ma solo per massoni. Questa democrazia è un incubo vero, non importa quanto sei rosso o nero, la croce che metti sulla scheda elettorale conta per loro quanto sterco di maiale. Pensi di cambiare le cose andando a votare, ma voti solo un burattino che si fa manovrare. Se il mondo vuoi cambiare dalla notte alla mattina, la soluzione è una sola, si chiama ghigliottina. Io non voto, punto. Non partecipo più a questa farsa e fanculo alle marionette sioniste, di maiali sionisti son piene le liste.